Se aprissi gli occhi saprei cosa guardare. Il tuo splendido volto così pieno di luce, così vero per me. Non saprei cos'altro guardare. Se mi avvicinassi ancora con gli occhi chiusi alle tue morbide labbra che mi sanno ascoltare, non potrei immaginare chi altri dovrei baciare. Se non sono per te, ho fatto l'amore.